sul piano del lavoro così come è stato presentato da parte degli altri nelle precedenti comunicazioni, ancora per le visite pastorali della Sicilia in realtà non si è neanche iniziato a progettare un lavoro simile. Solo in quest'ultimo periodo, sia dopo aver visto questo volume di Mazzone e Turchini, così per conto mio, dopo aver incontrato il professor Turchini a Grado, al convegno del professore di storia della Chiesa, si è cominciato a pensare di impostare questo lavoro per la Sicilia. E la mia comunicazione è su due piani. Uno su alcune notizie di carattere generali sulle visite pastorali in Sicilia e specificatamente per Catania, l'altro invece su un'esperienza che stiamo portando avanti per la computerizzazione della visita pastorale che è attualmente in corso nella diocesi di Catania. Già accennavo ieri una delle specificità proprie della Chiesa siciliana, che è quella delle visite regge, e di come la Chiesa siciliana ha vissuto per secoli sotto questa cappa di giurisdizionalismo espressa dalla Legazia Apostolica e dal Tribunale di Regia Monarchia. Le visite pastorali siciliane in realtà non sempre hanno significato un momento di governo e di riforma, proprio per questa presenza giurisdizionalista. Noi abbiamo da tenere presente anche un fenomeno che forse è unico in Italia, ma da verificare anche per l'Europa, forse senza presunzione, che è questo. Sino all'inizio dell'Ottocento la Sicilia aveva solo 9 diocesi. Tra il 1819 e il 1844 vengono fondate altre 7 diocesi. Una viene fondata negli anni 50 e poi c'è il caso della diocesi di Piana degli Albanesi, che è per i cattolici di rito greco. Ovviamente, e questo allora fa capire come il materiale delle visite pastorali presenti nelle diocesi siciliane è di diversa natura, in funzione o rispecchiante la fondazione della diocesi. Per cui noi ci troviamo ad avere Catania con circa 300 pacchi di visite pastorali e Acireale con appena 6. O il caso, per esempio, della diocesi di Caltanissetta, dove le carte delle visite pastorali, piuttosto che costituire un fondo a sé stante, confluiscono fra le carte dei singoli vescovi. Per cui lì si tratta di andare a estrapolare poi ed eventualmente, se si decide, di costituire un fondo a sé stante. Oppure la diocesi di Agrigento, che ha circa 200 volumi, e questo forse è un caso unico in Sicilia, ma andrebbe verificato, le visite pastorali che sono rilegate a volume per singolo vescovo. Anche le visite pastorali di Catania per alcuni episcopati sono rilegate a volume, ma in una forma molto libera. Catania conosce l'istituto della visita pastorale già a partire dal XV secolo. Del XV secolo noi non conserviamo delle visite pastorali ben strutturate, ma solo degli spezzoni. Premetto che del fondo delle visite pastorali è stato già fatto un primo inventario di tutto quanto il fondo, che permette attualmente agli studiosi che vengono a fare ricerca all'archivio della Curia Arcivescovile di poter accedere direttamente ai pacchi dove sono le visite che riguardano il comune di interesse. Le visite pastorali di Catania sono ordinate in modo cronologico e la cronologia è data dal vescovo visitatore all'interno, ovviamente, secondo l'iter che la visita ha seguito. Non sempre il vescovo o i commissitatori visitavano tutti i comuni della diocesi e non sempre la visita avveniva in modo sincronico, per cui noi abbiamo visite che si dilungano nell'arco anche di 8-10 anni o vengono a spezzoni. tante volte le visite non sono in modo continuativo, magari dettate da eventi particolari, o il colera, o una eruzione dell'Etna, o un terremoto, eccetera. Mancano le visite pastorali di questionari ben strutturati, per cui il visitatore o i commistatori seguivano uno schema di visita molto, molto vago. Per quanto riguarda l'utilizzo storiografico delle visite, è necessario, è emerso già tra ieri pomeriggio e stamattina anche, ma per quanto riguarda noi ancora con maggiore evidenza, è necessario verificare il materiale della visita con altre fonti, per meglio contestualizzare la stessa visita. Perché? Per due ordini di motivi, a mio modo di vedere. Il primo, per verificare se effettivamente ciò che viene registrato da parte del visitatore o del commistatore non sia una impressione o un pregiudizio o un giudizio del visitatore. Secondo, perché nello stesso periodo, contemporaneamente, il vescovo emette degli atti che permettono di gettare nuova luce o di ampliare l'angolo di visuale di quella che è la situazione di una singola comunità. Faccio un esempio. Non è possibile utilizzare il materiale delle visite pastorali senza andare a guardare, per esempio, i registri delle lettere e delle lettere in corso di sacra visita, oppure il fondo dei rivieli e degli inventari, oppure gli atti sinodali, perché il vescovo magari aveva la preoccupazione di verificare se quanto stabilito nel sinodo fosse stato reso operativo da parte del clero. Un'altra indicazione da tenere presente è questa. Accennavo già ai rapporti con il potere statale. Ho verificato che sul contenuto delle visite, per il 600 e buona parte del 700, la visita effettivamente, il materiale delle visite effettivamente è abbastanza ricco. All'inizio dell'800, invece, il materiale delle visite è eccessivamente scarno e più delle volte è una semplice registrazione di ciò che il vescovo trova sul piano, della cosiddetta visita reale delle cose. Credo che questo rispecchi un po' la difficoltà dei rapporti tra Stato e Chiesa, e rispecchi anche una forma di assuefazione dell'Episcopato a quella che era la giurisdizione propria del potere regio. Il vescovo comincia a percepire in pratica che la visita non è uno strumento di governo e di riforma seria. Questa è un'ipotesi che ovviamente andrebbe verificata, ma l'impressione prima che ne ho ricavato è proprio questa. Non si capisce altrimenti, perché la visita diventa un fatto formale al punto che sistematicamente nelle visite successive magari si ritrovano le stesse identiche situazioni. Allora il vescovo magari adotta un criterio diverso di governo. E questo va connesso con la necessità di accompagnare lo studio della visita con notizie precise sulle istituzioni ecclesiastiche locali. Faccio due esempi relativamente a Catania. Catania, ma è stato verificato in quest'ultimo periodo non solo Catania, in Sicilia aveva la prerogativa del vescovo unico parroco. La diocesi non aveva parroci effettivi, ma aveva solo vicari sacramentali per la città, e aveva nel territorio diocesano vicari forani che erano equiparati ai parroci, però erano amovibili ad denutum episcopi. E questo nonostante il Concilio di Trento, nonostante vari tentativi di riforma messi in atto da alcuni vescovi, fino all'assurdo della proposta dell'arcivescovo Dusmet nella relazione ad limina del 1869, che propone alla Santa Sede di istituire parroci amovibili ad inutum episcopi e anzi assolutizzare l'esperienza di Catania per l'Italia quantomeno, ma teniamo presente la difficoltà di rapporti che c'erano in quel periodo postunitario tra Chiesa e Stato e l'ingerenza da parte del potere politico nella nomina non solo dei vescovi ma anche dei parroci. E allora come fare, come comprendere gli atti di una visita pastorale se non si fa una premessa chiara su questa prerogativa della diocesi? E come pure, ne parlavamo con Boaga, come parlare delle parrocchie e delle confraternite in Meridione e in Sicilia senza tenere conto che la confraternita fuoriesce alla giurisdizione del parroco e vive una condizione giuridico-religiosa propria? Un'altra indicazione ancora. Come parlare, per esempio, del capitolo della cattedrale senza tenere conto che a Catania il capitolo della cattedrale fino al 1569 è composto da monaci benedettini? Perché? Perché dal momento della rifondazione della chiesa catanese dopo la dominazione saracena, il vescovo o Ruggero il Normanno al momento della rifondazione istituisce la chiesa catanese come chiesa monastica, per cui il vescovo era l'abate benedettino e contemporaneamente l'abate e il vescovo detenevano sia il potere religioso, sia il potere in spiritualibus che in temporalibus, in piena forma. Poi i vescovi non sono più gli abati benedettini e non provengono più dal mondo benedettino, ma il capitolo della cattedrale fino al 1569 è composto esclusivamente da monaci benedettini. Il caso è ancora più assurdo se guardiamo Monreale, dove solo nel 1911 il capitolo della cattedrale viene secolarizzato, perché fino al 1911 il capitolo è composto da monaci benedettini. Erano rimasti ormai tre vecchietti dopo la soppressione del 66, però è stato necessario aspettare fino a quella data per secolarizzarlo. E un'altra indicazione da tenere presente è la difficoltà a visitare materialmente la diocesi. Faccio il caso del vescovo di Agrigento o del vescovo di Messina. Il territorio della diocesi di Agrigento, prima della fondazione della diocesi di Caltanissetta, e il territorio della diocesi di Messina erano indubbiamente tra i più vasti delle diocesi siciliane, con difficoltà non indifferenti per il vescovo a muoversi soprattutto nella zona delle montagne. Per cui non è facile che il vescovo fosse in grado materialmente, tenendo conto delle stagioni eccetera, perché l'estate per il caldo e allora fiacca, l'inverno per la neve sulle montagne o per il maltempo allora impedisce di muoversi agevolmente, primavera e autunno, tra Pasqua in primavera, Natale eccetera, ecco i tempi effettivi nell'arco di un anno della visita erano molto ristretti tante volte. E allora ecco, non si può non tenere conto anche di queste difficoltà. Questo così alcune indicazioni di carattere generale sulle visite, sul materiale delle visite pastorali e sulle visite pastorali. E adesso la seconda parte è proprio l'esperienza che stiamo attualmente facendo della visita pastorale attualmente in corso. E dirò subito, capirete subito perché mi sembrava importante proporre questa esperienza che stiamo facendo. Il precedente arcivescovo di Catania, Domenico Picchinenna, aveva indetto la visita pastorale, però portò a compimento solo la visita pastorale, nel senso proprio di vita pastorale della diocesi. Poi nel 1988, al compimento dei 75 anni, è andato in pensione. Il nuovo arcivescovo, con decreto del 5 febbraio 90, ha indetto la visita pastorale reale alle cose a completamento della visita pastorale fatta dal suo predecessore. All'inizio, al momento di iniziare la visita pastorale, ci siamo posti la domanda se conveniva riprodurre le visite precedenti, quindi accumulare un ingente materiale cartaceo e solo quello, o se non era necessario, tenendo conto delle condizioni in cui si vive, anche di computerizzare l'attuale visita, il lavoro che si stava facendo. Abbiamo fatto una scelta, adesso non sto qui a narrare tutte le vicende che stanno dietro, abbiamo fatto una scelta che è quella di, prima di computerizzare o di scegliere il programma, di elaborare la scheda per la visita, la scheda per gli enti ecclesiastici. La visita va fatta non solo alle parrocchie, ma anche alle confraternite, agli oratori, eccetera. Nell'elaborazione della scheda, allora, abbiamo avuto alcune preoccupazioni. Vi leggo semplicemente i titoli di tutta la scheda, che a sua volta poi è suddivisa in sezioni. Una scheda anagrafica con le notizie minime dell'ente da visitare, dal decreto di erezione canonica al decreto di riconoscimento civile, al legale rappresentante, eccetera. Una seconda scheda anagrafica con notizie storiche sull'ente da visitare e poi il patrimonio immobiliare, a partire proprio dalla chiesa, chiedendo la descrizione, l'anno di costruzione, la dedicazione, l'interno della chiesa, i vari locali della chiesa stessa, i locali annessi alla chiesa, il campanile, il sagrato, la sagrestia, la casa del fercolo per le feste laddove c'è, la rettoria e i locali per il ministero pastorale, del fercolo e per le processioni, per esempio per portare in processione Sant'Agata, no? Il mezzo busto argenteo di Sant'Agata, non si porta sulla spalla, ma c'è tutta una macchina, no? Con baldacchino, eccetera, sulla quale viene collocato il mezzo busto e cammina per le vie della città quando si va in processione. Oppure, questo è il fercolo, quello che noi chiamiamo il fercolo, no? Oppure per portare in processione la statua della Madonna, eccetera, ecco, serve tutta, che alcuni di questi fercoli sono preziosi, alcuni risalgono al 500 e al 600, lignei, massicci, pesantissimi, che hanno bisogno di ruote per essere trascinati. Poi, dicevo, la rettoria e locale del ministero, cioè dalla casa canonica, la casa del sagrista, i locali per il ministero pastorale, il patrimonio immobiliare, fabbricati urbani, con l'ubicazione, i confini, i dati catastali e quante più notizie possibili, e chiedendo gli allegati, certificato catastale, estratto di mappa, eccetera, e ancora sul patrimonio immobiliare i fondi rustici, il patrimonio culturale, l'archivio storico e l'archivio corrente. Abbiamo per esempio fatto una scelta di considerare come archivio storico fino al 1930 e dal 1931 come archivio corrente. E, ecco, all'interno dell'archivio storico noi chiediamo i decreti costitutivi dell'ente, sia decreto canonico che decreto civile, i decreti di nomina del titolare e poi i registri, battesimi, cresime, matrimoni, defunti, stati d'anime, dall'anno all'anno e il numero dei volumi, i legati testamentari, specificatamente le carte delle visite pastorali, la corrispondenza o la presenza di un liber chronicus, le pergamene, eccetera. Poi sul patrimonio culturale chiediamo anche la presenza e la descrizione di beni mobili di valore artistico, vasi sacri in oro, in argento, tovaglie d'altare, parati sacri preziosi, quadri d'arte, statue in legno, marmo, ecco, il fercolo e altri arredi di valore. Poi, sempre del patrimonio culturale, consideriamo i preziosi, cioè doni votivi in oro e in argento, e chiediamo un inventario dettagliato di tutti i doni votivi, specificando la destinazione voluta dall'offerente, su arredi vari, arredi, suppellettile, biblioteca, con inventario dettagliato. E poi una scheda sui libri liturgici. Infine, una scheda per note aggiuntive e una scheda per le note dei commistatori, dalle quali poi il vicario generale emana il decreto a conclusione della visita, e che riporta soprattutto, oltre alla, come dire, alla ovvia lode per il parroco, per il titolare dell'ente, per tutto quello che ha fatto, ma poi riporta in modo preciso i doveri a cui viene richiamato il titolare dell'ente per sistemare adeguatamente la situazione. Bene, elaborata questa scheda, allora abbiamo chiesto a degli amici che lavorano nel mondo della computerizzazione, abbiamo chiesto a degli amici di elaborare un programma che rispecchiasse fedelmente questa scheda. Il programma prevede, ma è stato elaborato utilizzando come programma di elaborazione il Paradox. Non so chi di voi conosce il Paradox, ma è un programma grosso, ma permette non poche possibilità di muoversi, sì, non poche possibilità di muoversi sia come videoscrittura che come database. Alcune pagine del programma, laddove è stato ritenuto necessario, ovviamente tenendo presente la descrizione del materiale che ogni ente poi viene a darci, alcune pagine del programma sono lasciate aperte, senza limite, altre invece, proprio perché previste, sono chiuse, e tutto quanto ovviamente in funzione delle esigenze predeterminate. L'inventariazione, e questa è la novità, che mi sembra sia un'esperienza unica attualmente, l'inventariazione dei beni artistici, dell'arredo liturgico, quindi di tutto il patrimonio artistico, quadri, calici, parati pregiati, ex voto, eccetera, avviene con videoregistrazione. Perché? Noi ci siamo posti questo problema. Di tutto questo materiale, tenendo presente anche i furti che avvengono, di tutto questo materiale vogliamo fotografare e per conservare memoria nel caso in cui avviene un furto e per fornire agli organi di polizia l'immagine nel momento in cui avviene un furto per le opportune ricerche. Abbiamo fatto un piccolo calcolo. Volendo fotografare tutto, abbiamo fatto una media, ovviamente capite, non per eccesso ma per estremo difetto, una media di 20 fotografie per ogni ente. E abbiamo calcolato, stavolta in eccesso, circa 1000 enti da visitare. Capite che si tratta di 20.000 fotografie. Il problema è dove conservare le 20.000 fotografie, a parte la spesa che questo costa, che questo comporta, no? Dove conservare le 20.000 fotografie, come schedare le 20.000 fotografie, come connettere le 20.000 fotografie agli atti della visita, dove conservare in modo da che sia reperibile facilmente, dove conservare i negativi di queste 20.000 fotografie. Questo comporta ovviamente dei problemi non indifferenti. Allora, abbiamo optato per la videoregistrazione di tutto questo materiale, ma, e qui la novità, al momento della emissione dei dati della visita in computer, quindi in pratica noi diamo ad ogni ente la scheda, il titolare dell'ente deve riportarci, deve consegnarci la scheda va verificata in loco da parte del commissitatore, una volta finita la visita tutta la scheda, tutto il fascicolo, una carpetta in pratica, viene consegnata a un operatore che lavora al computer. E viene consegnata anche la videoregistrazione dei beni del patrimonio artistico. Accanto alla macchina, al computer, c'è allora un videoregistratore con un altro monitor, il monitor della videoregistrazione. In apposito monitor, distinto da quello del computer, quindi, l'operatore vede il filmato relativo all'ente visitato. Del filmato seleziona l'immagine ritenuta migliore sul piano proprio di immagine e blocca. Provvede quindi a memorizzare l'immagine connettendo l'immagine alla scheda dell'ente. La scheda e le immagini vengono memorizzate su due distinti dischi rigidi. La prima è in un normale disco rigido da 150 megabyte per l'archiviazione dei dati. Le immagini invece su un disco ottico Worm. Per chi è ad uso a queste cose sa che il disco Worm è possibile scrivere ma non permette mai di cancellare. Quindi l'immagine una volta registrata non si perde mai. E le immagini vengono registrate su disco ottico WORM da 800 MB. Ma 800 MB significa poter registrare circa 4.000 immagini. Quindi significa che con 5-6 dischi WORM noi abbiamo la registrazione, le immagini di tutto il materiale artistico della diocesi. Ovviamente è possibile stampare sia la scheda, in quanto le immagini con due differenti stampanti. La scheda su una normale stampante laser, mentre le immagini su una stampante laser multicolore, che ha una gamma di 3200 colori. Quindi nel momento in cui noi vogliamo di un calice, eccetera, possiamo richiedere, tra virgolette, la fotografia, no? E nel giro di pochi minuti abbiamo l'immagine stampata. Questo, la possibilità, ecco, per ulteriore notizia, utilizziamo il microprocessore 386 con 25 MHz di velocità e una memoria RAM di 2 MB, ma pensiamo di ampliarla a 4 MB. E questo che cosa ci permette anche? Ci permette di poter conoscere, qui una risposta alle domande o al lavoro posto compiuto dagli altri, ci permette di poter conoscere immediatamente anche, se noi lo vogliamo, quanti calici del 600 la diocesi possiede e dove sono. E se vogliamo l'immagine di tutti i calici del 600. Ecco, questo ancora una volta mi fa dire, questa esperienza ancora una volta mi fa dire che non esiste, permettetemi di dirlo così, non può esistere un programma valido comunque per tutti. Come pure, adottare un programma standard, faccio un esempio all'ISIS dell'UNESCO, che ho avuto modo di conoscere l'anno scorso al convegno degli archivisti ecclesiastici, lo usano anche all'archivio della Curia Patriarcale di Venezia. Ecco, nel momento in cui ho un problema con il programma, io devo aspettare non so quanto tempo perché il tecnico che si trova a Firenze o si trova a Venezia, eccetera, venga a Catania, me lo venga a sistemare e mi renda nuovamente operativa la macchina. Mentre l'operatore, colui che ha elaborato questo programma, che si trova in loco, nel momento in cui noi ne abbiamo avuto di bisogno per un motivo qualsiasi, nell'arco di mezza giornata è stato da noi e ha lavorato il tempo necessario con un costo, con una spesa ovviamente irrisoria rispetto alla necessità di far venire un tecnico da Firenze, da Roma, da Venezia o da altre parti. Allora, e concludo, credo che sia opportuno, prima ancora di scegliere un programma o di pensare alla computerizzazione, avere una conoscenza quanto più possibile in profondità dell'archivio e del materiale archivistico con cui si deve lavorare. Grazie.